morri, sou boi cutau. Nunga tu baga, jala tu bagas, holong nirohatku. Nando, sai hupasi di alai mandi ya kate ate. Lamda o alam mana di kokong langganda si taono. Yeah.